amici dice l'ho preparato per te. Lenta atmosfera se tu danzi per me. Se resti immobile potrei lasciarti e lo sai, ma danza ancora io per te e morirò. Muoviti lenta più sinuosa che puoi, scivola lenta nei desideri miei. Colmarli adesso è un peccato, lo sai. Io aspetto ancora che tu danzi per me. Danza come la tua ultima ora e prende vita l'aria che il corpo sfiora sotto i veli della ragione. E si nasconde ciò che il mio amore vuole. Lui vuole te. Lui vuole te. Lui vuole te. Danza per me. Danza per me. Danza per me. Danza per me. Che adesso mi fai, ma se accettassi io ti tradirei. Resisto ancora al desiderio di te, l'appagamento non è comando. Come sognarti, aspettarti, pensarti, sfiorarti, costruirti, immaginarti e danzarti. Sfiorarti, costruirti, immaginarti, danzarti, danzarti, danzarti, danzarti. Che il corpo sfiora sotto i veli della ragione. Ho nascosto ciò che il mio corpo vuole. Il cuore batte un tempo distratto, il vino acquisce ogni distacco. Lo sciamano declina l'invito. Se danzi solo